ad alta voce. Lucia Poli legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Don Abbondio stava zitto, ma non era più quel silenzio forzato e impaziente. Stava zitto come chi ha più cose da pensare che da dire. Le parole che sentiva erano conseguenze inaspettate, applicazioni nuove, ma d'una dottrina antica però nella sua mente e non contrastata. Il male degli altri, dalla considerazione del quale l'aveva sempre distratto la paura del proprio, gli faceva ora un'impressione nuova. E se non sentiva tutto il rimorso che la predica voleva produrre, che quella stessa paura era sempre lì a far l'uffizio del difensore, ne sentiva però, sentiva un certo dispiacere di sé, una compassione per gli altri, un misto di tenerezza e di confusione. Era, se ci si lascia passare questo paragone, come lo stoppino umido e ammaccato d'una candela che, presentato alla fiamma d'una gran torcia, da principio fuma, schizza, scoppietta, non ne vuol saper nulla, ma alla fine s'accende e, bene o male, brucia. Si sarebbe apertamente accusato, avrebbe pianto, se non fosse stato il pensiero di Don Rodrigo, ma tuttavia si mostrava abbastanza commosso perché il cardinale dovesse accorgersi che le sue parole non erano state senza effetto. Ora, proseguì questo, uno fuggitivo da casa sua, l'altra in procinto d'abbandonarla, tutte e due con troppo forti motivi di starne lontani, senza probabilità di riunirsi mai qui e contenti di sperare che Dio li riunisca altrove. Ora, purtroppo, non hanno bisogno di voi. Purtroppo, voi non avete occasione di far loro del bene. Né il corto nostro prevedere può scoprirne alcuna nell'avvenire. Ma chissà se Dio misericordioso non ve ne prepara. Ah, non le lasciate sfuggire, cercatele, state alle velette, pregatelo che le faccia nascere. Non mancherò, monsignore, non mancherò, davvero, rispose Don Abbondio con una voce che in quel momento veniva proprio dal cuore. Ah sì, figliuolo, sì, esclamò Federico e con una dignità piena d'affetto concluse. Lo sa il cielo se avrei desiderato di tener con voi tutt'altri discorsi. Tutte e due abbiamo già vissuto molto. Lo sa il cielo, se m'è stato duro di dover contristar con rimproveri codesta vostra canizie. E quanto sarei stato più contento di consolarci insieme delle nostre cure comuni, dei nostri guai, parlando della beata speranza alla quale siamo arrivati così vicino. Piaccia a Dio che le parole le quali ho pur dovuto usar con voi servono a voi e a me. Non fate che m'abbia a chieder conto in quel giorno d'avervi mantenuto in un uffizio al quale avete così infelicemente mancato. Ricompriamo il tempo. La mezzanotte è vicina. Lo sposo non può tardare. Teniamo accese le nostre lampade. Presentiamo a Dio i nostri cuori miseri, vuoti, perché gli piaccia riempirli di quella carità che ripara il passato, che assicura l'avvenire, che teme e confida, piange e si rallegra con sapienza, che diventa in ogni caso la virtù di cui abbiamo bisogno. Così detto si mosse e Don Abbondio gli andò dietro. Thank you. l'anonimo ci avvisa che non fu questo il solo abboccamento di quei due personaggi, né Lucia il solo argomento dei loro abboccamenti, ma che lui si è ristretto a questo per non andare lontano dal soggetto principale del racconto e che per lo stesso motivo non farà menzione d'altre cose notabili dette da Federigo in tutto il corso della visita, né delle sue liberalità, né delle discordie sedate, degli odi antichi tra persone, famiglie, terre intere spenti o, cosa che era purtroppo più frequente, sopiti, né di qualche bravaccio tirannello ammansato o per tutta la vita o per qualche tempo, cose tutte delle quali ce n'era sempre più o meno in ogni luogo della diocesi dove quell'uomo eccellente facesse qualche soggiorno. Dice poi che la mattina seguente venne donna Prassede, secondo il fissato, a prendere Lucia e a complimentare il cardinale, il quale gliela lodò e raccomandò caldamente. Lucia si staccò dalla madre, potete pensar con che pianti, e uscì dalla sua casetta. Disse per la seconda volta addio al paese, con quel senso di doppia amarezza che si prova lasciando un luogo che fu unicamente caro e che non può esserlo più. Ma i congedi con la madre non erano gli ultimi, perché donna Prassede aveva detto che si starebbe ancora qualche giorno in quella sua villa, la quale non era molto lontana, e Agnese promise alla figlia d'andar là a trovarla, a dare e a ricevere un più doloroso addio. Il cardinale era anche lui sulle mosse per continuare la sua visita quando arrivò e chiese di parlargli il curato della parrocchia in cui era il castello dell'innominato. Introdotto, gli presentò un gruppo e una lettera di quel signore, la quale lo pregava di far accettare alla madre di Lucia 100 scudi d'oro che erano nel gruppo per servir di dote alla giovine o per quell'uso che ad esse sarebbe parso migliore. Lo pregava insieme di dir loro che se mai in qualunque tempo avessero creduto che potesse render loro qualche servizio, la povera giovine sapeva purtroppo dove stesse e per lui quella sarebbe una delle fortune più desiderate. Il cardinale fece subito chiamare Agnese, le riferì la commissione che fu sentita con altrettanta soddisfazione che meraviglia e le presentò il rotolo che essa prese senza far gran complimenti. «Dio gliene renda merito a quel signore», disse, «e Vossignoria Illustrissima lo ringrazi tanto, tanto». E non dica nulla a nessuno, perché questo è un certo paese. Ma mi scusi, veda, so bene che un par suo non va a chiacchierare di queste cose, ma lei mi intende. Andò a casa zitta zitta, si chiuse in camera, svoltò il rotolo e quantunque preparata vide con ammirazione tutti in un mucchietto e suoi tanti di quei ruspi dei quali non aveva forse mai visto più d'uno per volta e anche di rado. Li contò, penò alquanto a metterli di nuovo per taglio e a tenerli lì tutti che ogni momento facevan pancia e sgusciavano dalle sue dita inesperte. Ricomposto finalmente un rotolo alla meglio, lo mise in un cencio, ne fece un involto, un batuffoletto e legatolo bene in giro con della cordellina l'andò a ficcare in un cantuccio del suo saccone. Il resto di quel giorno non fece altro che mulinare, far disegni sull'avvenire e sospirar l'indomani. Andata a letto, stette desta un pezzo col pensiero in compagnia di quei 100 che aveva sotto. Addormentata li vide in sogno. All'alba s'alzò e si incamminò subito verso la villa dove era Lucia. Questa, dal canto suo, quantunque non le fosse diminuita quella gran ripugnanza a parlare del voto, pure era risoluta di farsi forza ed aprirsene con la madre in quell'abboccamento che per lungo tempo doveva chiamarsi l'ultimo. appena poterono esser sole, Agnese, con una faccia tutta animata e insieme a voce bassa, come se ci fosse stato presente qualcheduno a cui non volesse farsi sentire, cominciò: «Ho da dirti una gran cosa!» e le raccontò l'inaspettata fortuna. «E Dio lo benedica, quel signore», disse Lucia. «Così avrete da star bene voi e potrete anche far del bene a qualchedun altro». «Come?» rispose Agnese. «Non vedi quante cose possiamo fare con tanti denari? Senti, io non ho altro che te, che voi due, posso dire, perché Renzo, da che cominciò a discorrerti, l'ho sempre riguardato come un mio figliuolo. Tutto sta che non gli sia caduta qualche disgrazia a vedere che non ha mai fatto saper nulla. Ma deve andar tutto male. Speriamo di no, speriamo. Per me avrei avuto caro di lasciar l'ossa nel mio paese, ma ora che tu non ci puoi stare, in grazia di quel birbone, e anche solamente a pensare di averlo vicino, colui m'è venuto in odio il mio paese. E con voi altri io sto per tutto. Ero disposta fin da allora a venire con voi altri, anche in capo al mondo, e sono sempre stata di quel parere. Ma senza denari come si fa? E intendi ora? Quei quattro che quel poverino aveva messi da parte con tanto stento e con tanto risparmio, è venuta la giustizia e ha spazzato ogni cosa. Ma per ricompensa il Signore ha mandato la fortuna a noi. Dunque, quando avrà trovato il bandolo di far sapere se è vivo e dov'è e che intenzioni ha, ti vengo a prendere io a Milano. Io ti vengo a prendere. Altre volte mi sarebbe parso un granché, ma le disgrazie fanno diventare disinvolti. Fino a Monza ci sono andata e so cos'è viaggiare. Prendo con me un uomo di proposito, un parente, come sarebbe a dire Alessio di Maggianico, che a voler dir proprio in paese un uomo di proposito non c'è. Vengo con lui, già la spesa la facciamo noi, E intendi? Ma vedendo che invece d'animarsi Lucia s'andava accorando e non dimostrava che una tenerezza senza allegria, lasciò il discorso a mezzo e disse: «Ma cos'hai? Non ti pare?» «Povera mamma!» esclamò Lucia, gettandole un braccio al collo e nascondendo il viso nel seno di lei. «Cosa c'è?» domandò di nuovo ansiosamente la madre. «Avrei dovuto dirvelo prima», rispose Lucia alzando il viso e asciugandosi le lacrime. «Ma non ho mai avuto cuore, compatitemi». «Ma di, su dunque!» «Io non posso più essere moglie di quel poverino». «Come? Come?» Lucia col capo basso, col petto ansante, lacrimando senza piangere, come chi racconta una cosa che, quando anche dispiacesse, non si può cambiare, rivelò il voto. E insieme, giungendo le mani, chiese di nuovo perdono alla madre di non aver parlato fino allora, la pregò di non ridir la cosa d'anima vivente ed aiutarla ad adempire ciò che aveva promesso. Agnese era rimasta stupefatta e costernata. Voleva sdegnarsi del silenzio tenuto con lei, ma i gravi pensieri del caso soffocavano quel dispiacere suo proprio. Voleva dirle: «Cosa hai fatto?» Ma le pareva che sarebbe un prendersela col cielo, tanto più che Lucia tornava a dipingere con più vivi colori quella notte la desolazione così nera e la liberazione così impreveduta, tra le quali la promessa era stata fatta, così espressa, così solenne. E intanto ad Agnese veniva anche in mente questo e quell'esempio che aveva sentito raccontar più volte, che lei stessa aveva raccontato alla figlia, di castighi strani e terribili venuti per la violazione di qualche voto. Dopo essere rimasta un poco come incantata, disse: «E ora, cosa farai? Ora, rispose Lucia, tocca al Signore a pensarci, al Signore e alla Madonna. Mi son messa nelle loro mani, non m'hanno abbandonata finora, non m'abbandoneranno ora che... La grazia che chiedo per me al Signore, la sola grazia, dopo la salvezza dell'anima, è che mi faccia tornare con voi. E me la concederà, sì, me la concederà. Quel giorno, in quella carrozza, Vergine Santissima, quegli uomini, chi m'avrebbe detto che mi menavano da colui che mi doveva menare a trovarmi con voi il giorno dopo? Ma non parlarne subito a tua madre, disse Agnese con una certa stizzetta temperata d'amorevolezza e di pietà. Compatitemi, non avevo cuore. E che sarebbe giovato d'affliggervi qualche tempo prima? E Renzo? Disse Agnese tentennando il capo. Ah, esclamò Lucia riscuotendosi, io non ci devo pensare più a quel poverino. Già si vede che non era destinato. Vedete come pare che il Signore ci abbia voluti proprio tener separati. E chissà, ma no, no, l'avrà preservato lui da pericoli e lo farà essere fortunato anche di più senza di me. Ma intanto, riprese la madre, se non fosse che tu ti sei legata per sempre, a tutto il resto, quando a Renzo non gli sia accaduta qualche disgrazia, con quei danari io ci avevo trovato rimedio. Ma quei danari, replicò Lucia, ci sarebbero venuti se io non avessi passata quella notte. È il Signore che ha voluto che tutto andasse così, sia fatta la sua volontà. E la parola morì nel pianto. A quell'argomento inaspettato, Agnese rimase lì pensierosa. Dopo qualche momento Lucia, rattenendo i singhiozzi, riprese: ora che la cosa è fatta, bisogna adattarsi di buon animo. E voi, povera mamma, voi mi potete aiutare, prima pregando il Signore per la vostra povera figlia, e poi bisogna bene che quel poverino lo sappia. Pensateci voi, fatemi anche questa carità, che voi ci potete pensare. Quando saprete dov'è, fategli scrivere, trovate un uomo, appunto vostro cugino Alessio, che è un uomo prudente e caritatevole. E ci ha sempre voluto bene e non ci arlerà. Fategli scrivere da lui la cosa com'è andata, dove mi son trovata, come ho patito e che Dio ha voluto così e che metta il cuore in pace e che io non posso mai, mai essere di nessuno. E fargli capire la cosa con buona grazia, spiegargli che ho promesso, che ho proprio fatto voto. Quando saprà che ho promesso alla Madonna, ha sempre avuto il timor di Dio. E voi, la prima volta che avrete le sue nuove, fatemi scrivere, fatemi sapere che è sano. E poi non mi fate più saper nulla. Agnese, tutta intenerita, assicurò alla figlia che ogni cosa si farebbe come desiderava. Vorrei dirvi un'altra cosa, riprese questa. Quel poverino, se non avesse avuto la disgrazia di pensare a me, non gli sarebbe accaduto ciò che gli è accaduto. È per il mondo, gli hanno troncato il suo avviamento, gli hanno portato via la sua roba, quei risparmi che aveva fatti, poverino, sapete perché. E noi abbiamo tanti denari. Oh mamma, già che il Signore ci ha mandato tanto bene, e quel poverino, è proprio vero che lo riguardavate come vostro, sì, come un figliuolo. Fate mezzo per uno, che sicuro il Dio non ci mancherà. Cercate un'occasione fidata e mandateglieli, che sa il cielo come ne ha bisogno. Ebbene, cosa credi? Rispose Agnese. Glieli manderò davvero, povero giovine, perché pensi tu che io fossi così contenta di quei danari? Ma io ero proprio venuta qui tutta contenta. Basta, io glieli manderò, povero Renzo. Ma anche lui, so quel che dico. Certo che i danari fanno piacere a chi ne ha bisogno, ma questi non saranno quelli che lo faranno ingrassare. Lucia ringraziò la madre di quella pronta e liberale condiscendenza, con una gratitudine, con un affetto da far capire a chi l'avesse osservata che il suo cuore faceva ancora mezzo con Renzo, forse più che lei medesima non lo credesse. «E senza di te, che farò io, povera donna?» disse Agnese piangendo anch'essa. E io senza di voi, povera mamma, e in casa di forestieri, e laggiù in quel Milano. Ma il Signore sarà con tutte e due, e poi ci farà tornare insieme. Tra 8 o 9 mesi ci rivedremo, e di qui allora, e anche prima spero, avrà accomodate le cose lui per riunirci. Lasciamo fare a lui. La chiederò sempre, sempre alla Madonna, questa grazia. Se avessi qualche altra cosa da offrirle, lo farei. Ma è tanto misericordiosa che me lo terrà per niente. E con queste ed altre simili e più volte ripetute parole di lamento e di conforto, di rammarico e di rassegnazione, con molte raccomandazioni e promesse di non dir nulla, con molte lacrime, dopo lunghi e rinnovati abbracciamenti, le donne si separarono, promettendosi a vicenda di rivedersi il prossimo autunno al più tardi, come se il mantenere dipendesse da loro e come però si fa sempre in casi simili. Lucia Poli ha letto I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.